Ecco, concludiamo la lettura del Purgatorio, ovviamente nel consueto modo, non dico frammentario, ma insomma trasversale, diacronico, ecco, seguendo percorsi tematici. Dunque, canto 26esimo. Versi 52 e seguenti. Io che 2 volte avea visto lor grato incominciai. O anime sicure d'aver quando che sia di pace stato, non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco col sangue suo e con le sue giunture. Qui Dante con la consueta coralità e con la consueta cortesia tipiche del purgatorio. Cantica dell'amicizia, insomma, cantica della concordia, della urbanitas, si potrebbe dire, no? Con un termine latino, contrapposta alla felinitas, diciamo, dell'inferno, invece. Ecco, qui Dante, con la consueta cortesia, risponde alle anime che ha incontrato, dopo, avendo visto il loro grato, cioè il loro qui grato è sostantivo, insomma il loro gradimento, la loro benevolenza. Ecco, e qui c'è questa formula di cortesia: voi anime del purgatorio che siete già sicure di avere, quando che sia, cioè un giorno o l'altro, quando sarà il momento, di pace stato, cioè di raggiungere la beatitudine eterna. Ecco, dice, no, non stupitevi per il fatto che io sono ancora nel mio corpo terreno, no? Le mie membra sono rimaste, il mio corpo, insomma, terreno, non è rimasto sulla terra, è qui con me, io compio questo viaggio ultraterreno con il mio corpo umano. Quinci su vo per non essere più cieco, donne di sopra che mi acquista grazia perché il mortal per vostro mondo reco, il mortale anche, qui aggettivo sostantivato, cioè io compio questo viaggio per non essere più cieco, per vedere la luce, cioè per conoscere il mondo ultraterreno, liberarmi dal peccato, conoscere la verità, la grazia nel cielo ultraterreno, insomma là nell'empireo, ecco, di sopra c'è una donna, Domina, cioè Beatrice, che mi acquista grazia, cioè che fa in modo che io possa ottenere la grazia divina, per cui porto con me la mia componente mortale, il mio corpo, anche attraversando il vostro mondo ultraterreno. Questo perché potrebbe dipendere proprio da grazia, cioè tramite Beatrice ottengo una grazia speciale per cui posso compiere questo viaggio ultraterreno senza essere ancora morto. Questa è una parte così introduttiva. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi, che pien d'amore e più ampio si spazia, questo se ha il consueto valore desiderativo, equivale al latino utinam, cioè possa il vostro desiderio di vedere Dio essere saziato ben presto. Tanto che voi possiate trovare dimora nel cielo pieno d'amore, no? Cioè l'empireo, il cielo supremo, luce intellettuale piena d'amore, no? Pien d'amore, e più ampio si spazia, cioè, ed è più vasto, più ampio. Ditemi, a ciò che ancor carte ne verghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di retro ai vostri tervi, cioè, per favore, rivelatemi chi siete, e qual è quell'altra schiera che viene dietro di voi. Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico si nurba. Ecco, vedete, una delle tipiche comparaciones domestiche, come le chiamava Benvenuto Rambaldi, cioè questi paragoni. Non aulici, questi paragoni tratti dal mondo quotidiano, quasi umile, no? il montanaro, qui stupido non vuol dire stupido come lo intendiamo noi, sarebbe quasi stordito, ecco, rimane turbato quando viene in città perché non trova più le stesse proporzioni e la stessa percezione dello spazio che aveva in montagna. Dice, dove è finito? E rimirando ammuta, cioè contemplando ciò che vede, rimane ammutolito. Quando roso e selvatico si inurba, cioè diviene cittadino, che ciascuna ombra fece in sua paruta. Analogo fu lo stupore di tutte queste ombre, queste anime del purgatorio che mi avevano visto. Ma poiché furono di stupore scarche, lo qual negli alti cuor tosto s'attuta, quindi appena si furono liberate da questo stupore che nelle anime più elevate e più padrone di sé dura poco, si attenua rapidamente, beato te che delle nostre marche ricominciò colei che prima mi chiese per morir meglio esperienza in barche. Quindi beato te che hai la possibilità di visitare i regni ultraterreni quando sei ancora vivo. Questo per morire meglio, cioè, conoscendo già i regni ultraterreni ti pentirai per tempo e morirai in grazia divina. La gente che non viene con noi offese di ciò perché da Cesare trionfando regina contra sé chiamarsi intese. Però si partono soddoma gridando, rimproverando a sé come hai udito, ed aiutano l'arsura vergognando. Qui ci troviamo nella cornice dei lussuriosi. Solitamente si dice che i lussuriosi del purgatorio sono divisi in due schiere, omosessuali ed eterosessuali. Qui c'è un riferimento ad una tradizione secondo cui Giulio Cesare sarebbe stato sedotto da Nicomede, re di Bitinia. Del resto Giulio Cesare, udite udite, questa cosa i libri di storia non la dicono, ma era notoriamente bisessuale, no? Giulio Cesare si diceva che fosse, non ricordo più quale autore riferisca questa diceria, cioè Giulio Cesare veniva definito l'amico di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti, una cosa del genere, proprio perché aveva questa vita sessuale così intensa sia con uomini che con donne. In particolare sarebbe stato sedotto da Nicomede, re di Bitinia, Nicomede che si era arreso era re di Bitinia, Nicomede, beh, comunque un sovrano orientale, il quale si era arreso ai romani, anche perché l'unico modo per questi sovrani orientali, ecco, di sottrarsi alla morte era sottomettersi ai romani, cedere il proprio regno, ecco, all'impero romano, salvandosi così la vita. Nicomede, se vogliamo, si prese una rivincita, no? C'era la battuta, no? C'era l'usanza dei versi fescennini, cioè quei versi che, e anche i Carmina Triumfalia, cioè quei versi che nel momento del trionfo i soldati a mo' di derisione rivolgevano al condottiero, questo per evitare che il condottiero insuperbisse eccessivamente, destando così l'ira degli dei. Era un momento liberatorio in cui si poteva dire di tutto, anche offendere pesantemente il generale, il condottiero. E allora i soldati di Cesare a mo' di scherno, scherno festoso, era comunque una celebrazione, un trionfo, no? C'erano questi versi, no? Cesar subigit Gallias Nicomedes Cesarem. Gioco di parole molto divertente, intraducibile in italiano, un po' volgare, ma insomma si potrebbe rendere: Cesare mise sotto le gallie, Nicomede mise sotto Cesare, ecco, una cosa di questo, questo genere. No? Cesare, che ironicamente veniva chiamato Regina, no? Per questa sua nota e, a dire il vero, insospettabile bisessualità. Cosa dice qui? È davvero singolare che ci sia questo riferimento burlesco, triviale, no? L'aneddoto è riferito da Svetonio, che, come è noto, indulge, no? A particolari, anche ridicoli a volte, anche così licenziosi. Sembra strano che in questo clima così elegante, così rarefatto del purgatorio, ci sia questo riferimento fescennino, così priapico. Ad ogni modo, perciò si parte un soddo magridando, vedete il duplice riferimento, no? Da un lato alla bisessualità di Cesare, dall'altro alla distruzione delle città di Sodoma e Gomorra, no? I sodomiti, cioè gli abitanti della città di Sodoma, che avrebbero voluto addirittura abusare degli angeli che Dio aveva mandato a Sodoma per cercare di redimere la città, rimproverando a sé come ha udito ed aiuta nella sua vergognando, cioè cercano di alleviare la rassura, cioè la sofferenza del fuoco e del rimorso che li tormenta, manifestando il proprio rincrescimento, ecco, il proprio pentimento. E qui c'è questo verso: il nostro peccato fu ermafrodito. Qui di solito i commenti dicono: ma qui ermafrodito vuol dire eterosessuale. Dicono: noi siamo, dice, nella schiera degli etero, insomma, gli omosessuali invece sono quelli dell'altra schiera di cui fa parte. Non Giulio Cesare, che non è qua, Giulio Cesare è nel limbo, ma questa schiera, no, in cui si trovano gli omosessuali. In realtà a me pare abbastanza assurdo pensare che il verso "il nostro peccato fu ermafrodito" significhi "il nostro peccato fu eterosessuale", perché insomma che senso avrebbero ermafrodito, il mito di ermafrodito, no? Il mito ovidiano di ermafrodito, no? Mito straordinario, questa figura mitica, no? Che aveva assunto una duplice natura sessuale dopo essersi unito con una divinità marina, con una ninfa. E allora c'è questa idea della fusione fra l'umano e il divino, ma anche l'idea dell'unione fra le polarità, fra le identità sessuali. Nostro peccato fu ermafrodito, io lo interpreterei: il nostro peccato consistette nella promiscuità, nell'ambiguità sessuale, no? Oggi si direbbe nel pansessualismo, o se vogliamo nella confusione, nella contaminazione, nella infrazione dei ruoli di genere, come si direbbe oggi. Ecco, questo episodio, alla luce proprio delle odierne, non teorie, ma degli odierni gender studies, potrebbe essere interpretato in modo interessante, trovare anche una nuova luce. Nostro peccato fu ermafrodito, e questo si chiarisce meglio anche nel seguito del canto, come vedremo. Ma perché mal servammo umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obbrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci, il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge, dice. Ma perché non mantenemmo il senso della misura? Seguimmo come bestie il desiderio, l'appetito, in obbrobrio di noi, vuol dire per sottolineare la nostra colpa, per nostra vergogna. Obbrobrio in questo senso, di opprobrium, di scandalo, di condanna. Per noi, qui per noi è il complemento di agente, cioè per noi si legge, vuol dire. Noi leggiamo, quando partingi, cioè quando ci dividiamo dalla schiera opposta, il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge, mito terrificante, no? Il mito di Pasifae, la quale avrebbe generato il Minotauro rinchiudendosi in una statua di legno a forma di vacca, per indurre un toro a congiungersi carnalmente con lei. Qui viene evocata una delle cose più terribili, una delle perversioni più terrificanti, no? Quella della cosiddetta zoofilia, no? Che comunque si trova nel mito, no? Nel mito, ad esempio, Leda e il cigno, no? Il mito di Leda, che cioè, praticamente, no? Zeus, che per congiungersi con Leda si trasforma in un cigno, no? E si congiunge con Leda mentre costei sta facendo il bagno in un fiume. È anche un mito, un motivo figurativo, no? Altro mito ovidiano. Ed è interessante anche qui il parallelismo, no? Fra l'unione dell'umano con il divino e la confusione delle identità sessuali, un po' come nel mito platonico anche dell'ermafrodita, no? Queste creature originarie che erano sia uomini che donne, e proprio per la loro arroganza, per la loro hubris, no? Per aver tentato di sfidare gli dei, perché essendo sia uomini che donne si sentivano onnipotenti, e allora proprio per questo furono punite con la divisione dell'uomo dalla donna, quindi con l'eterno senso di vuoto, di mancanza che ha l'uomo quando viene privato della donna e viceversa. Penia e Poros, no? Il mito del simposio platonico. Ma ecco, sono qui, non è che venga condannata. Più che la lussuria, probabilmente viene, ma neanche condannata, perché in realtà è poi un processo di sublimazione. Poi si ascosa nel fuoco che li affina, l'ultimo verso del canto. Cioè, queste anime comunque andranno in paradiso, no? È come se avessero attraversato questi turbamenti così profondamente umani, beh, non solo umani, anche animaleschi, se vogliamo, no? Seguendo come bestie l'appetito. C'è questo legame sottile fra la bestia e il Dio, no? Aristotele, che dice: chi vive in solitudine o è una bestia o è un Dio. Cioè, questa idea della divinità e della bestialità, che in certa misura sono imparentate. Questo meraviglioso neologismo imbestiarsi, che si ritroverà in D'Annunzio, per esempio, no? Che era un grande appassionato di queste rarità linguistiche, che si imbestiò nelle imbestiate schegge, vuol dire che no, si congiunse carnalmente con un toro, fece esperienza della bestialità, della zoofilia, cioè la forma più degradante, più orrenda, no? Della perversione. Ma c'era comunque qualcosa di divino anche in questa depravazione, di soprannaturale, no? Nelle imbestiate schegge, cioè chiudendosi appunto in questa vacca di legno. Anche questo mito ovidiano, le reminiscenze ovidiane attraversano tutto il poema. Ovviamente si tratta per lo più di metamorfosi degradanti nell'inferno, di una metamorfosi invece sublimante nel paradiso, in cui c'è il riferimento al mito di Glauco, ancora la trasformazione in divinità marina, nel gustar dell'erba che il fe consorto in mare con gli altri dei. Allora, orsai i nostri atti e di che fummo rei. Quindi ora conosci i nostri atti e di che cosa fummo. Ecco qui, fra l'altro, in questo imbestiarsi, seguendo come bestia l'appetito, c'è un riferimento forse, ecco, a quel passo sallustiano in cui Sallustio dice, Sallustio che aveva frequentato ambienti neopitagorici. Una pagina di Sallustio piena di reminiscenze pitagoriche, platoniche, con l'idea di purificazione, di catarsi. E Sallustio dice: ma ci sono stati uomini che veluti pecora transient, adesso non me lo ricordo a memoria, persone schiave del ventre, schiave dei sensi, schiave del corpo, che attraversano la vita silenzio, veluti pecora, in silenzio, come bestie, come animali, e si tace, cioè nessuno parla più né della loro vita né della loro morte. Dunque, Questo oblio è quanto Dante, le cose che Dante teme forse più di ogni altra, no? Temo di perder viver fra coloro che questo tempo chiameranno antico, no? Cioè, come no? Una vita oltre la vita, che attraverso la memoria, no? Mi insegnavate come l'uomo s'eterna, dice a Brunetto Latini, insomma, no? L'uomo che deve sublimare questa terrestrità e questa corporeità che può rasentare la natura quasi bestiale, deve riuscire a sublimarla, purificarla, proprio come hanno fatto queste anime del purgatorio, e trasformare questo amore quanto mai umano, anzi in alcuni casi degradante, verso un'istintualità bestiale, perché in fin dei conti la libido, no? Può essere la base di un sentimento che è comunque anche nobile, anche sacro, anche elevato, no? L'amore, no? È alla base, c'è cioè comunque un istinto, una pulsione così libidica che accomuna l'uomo all'animale, no? C'è cioè questa duplicità, pensate, l'amore, questo sentimento che può diventare così elevato, così nobile, in casi rari, per lo più, insomma, di veri amori, così assoluti, così, no? Quanti se ne trovano in una vita, diciamo, nella maggior parte dei casi prevale forse la sfera così istintuale. Comunque, no, dice, orsai, nostri atti e di che fummo rei, se forse a nome vuoi sapere chi siamo, tempo non è di dire, non saprei. Dice, vabbè, questa è una terzina così di passaggio, non la conosci, ora sai quali furono i nostri atti, quali di che cosa fummo colpevoli, e non ci sarebbe nemmeno il tempo di chiamare per nome tutte queste anime, perché i lussuriosi furono molto numerosi. Farotti ben di me volere scemo, qui non vuol dire, non è scemo come, sembra come lo offendo, di dare lo scemo, no? Farotti ben di me volere scemo vuol dire, vabbè, soddisferò la tua curiosità di conoscere il mio nome. Sono Guido Guinizelli, ecco qua. Compare qui Guido Guinizelli, o Guinicelli per meglio dire, no? Cosiddetto iniziatore del cosiddetto dolce stil novo. In realtà abbiamo già avuto modo di vedere che questa categoria storiografica di dolce stil novo può essere considerata anche un po' fallace, se vogliamo, ma è già mi purgo, cioè mi purifico per ben dolermi prima che lo stremo, per il fatto di essermi pentito prima del momento della morte. Quali nella tristizia di Licurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi feci io, ma non tanto in suru. Questo è un complicatissimo riferimento mitologico che nessuno, e sfido chiunque a ricordarlo senza leggere la nota, insomma leggetevi la nota da soli, capito? Si fer due figli a riveder la madre, tal mi feci io, ma non tanto in suru. Cioè, diciamo, anch'io fui preso da un grande dolore, misto a stupore. Dice, quando io odo nomare se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai, rime d'amore usar dolci e leggiadre, versi rimasti celebri. Un'altra definizione del cosiddetto dolce stil novo può apparire una definizione quasi banale, se vogliamo, anche se definire banale una cosa scritta da Dante è una bestemmia, ma no, dolci e leggiadre, vabbè, insomma, il solito canone cosiddetto stil novistico, no? Sentimento amoroso è anche un registro espressivo, così dolci, raffinati, soavi, senza le asprezze e la rozzezza, almeno quella che veniva considerata tale, della cosiddetta scuola siculo toscana. E senza udire dir pensoso andai, lunga fiata, cioè per lungo tempo, a lungo, rimirando lui, contemplandolo, né per lo fuoco in là più mi appressai. Quindi, beh, a causa delle fiamme non mi accostai a lui maggiormente. Può darsi che questo fuoco abbia anche, anzi sicuramente questo fuoco che rappresenta da un lato la passione amorosa, dall'altro lato la fiamma del castigo divino, del pentimento, ma anche della purificazione, insomma, sicuramente questo fuoco ha un valore simbolico. Poi che di riguardar pasciuto fui, quindi dopo che mi fui ormai saziato di guardare, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Quindi dopo che ebbe appagato il mio desiderio di contemplarlo, mi offrì al suo servizio, cioè gli chiesi cosa desiderava, con l'affermare che fa credere a lui con quella disponibilità che induce anche l'interlocutore a fidarsi. Ed egli a me: tu lasci tal vestigio per quel che io odo in me, che è tanto chiaro, che l'Eterno può porre né far bigio, dice. Ed egli mi disse: tu lasci in me un'impronta talmente profonda per quello che io sento dire di te, e tanto nitida, che il lite, il fiume dell'oblio, attraverso cui passavano le anime per dimenticare i peccati che avevano commesso in vita, non può eliminarlo e nemmeno oscurarlo, renderlo scialbo. Ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi che è cagion, perché dimostri nel dire, nel guardare, avermi caro. Dice: ma se le tue parole hanno giurato la verità, dimmi perché mi sei così grato. Ecco. E io a lui: li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro incostri. Ecco, l'uso moderno, questo concetto di, cioè, paradossalmente, il concetto di modernitas, di modernus, nasce proprio nel Medioevo, no? C'era anche in filosofia la cosiddetta via modernorum, la logica modernorum, che era quella della scolastica contrapposta alla vecchia tradizione, vecchia, insomma, la tradizione platonica e mistica. Quanto durerà l'uso moderno, per antiche, per moderne carte, fra lo stile de moderni e il sermon prisco? In Dante, in Petrarca, prende forma proprio questo concetto di modernità. Sembra davvero strano che l'idea di modernità nasca proprio dal Medioevo. Noi siamo abituati a contrapporre, no? Il Medioevo, cioè praticamente finisce il Medioevo e inizia l'età moderna, no? Poi non si sa esattamente quando, gli storici non concordano sullo spartiacque fra le due epoche, ma modernus, no? Deriva dalla radice dell'avverbio modo, nel senso di qualcosa che è appena accaduto, qualcosa di recente, anche di momentaneo, di transitorio, no, ciò che è modernus, modernum, vabbè, al neutro, ma c'è come questa circolarità di modernità e antichità, cioè Baudelaire dirà, insomma, no? Ogni modernità lavora e si sforza per rendersi degna di divenire antichità. Cioè, ogni modernità cerca di affermare, di lasciare una traccia assoluta, perenne e quindi sovrastorica, metatemporale, no? E quindi proprio per questo destinata ad essere ricordata dopo la fine della modernità, quindi a divenire antica, no? Il moderno aspira a tornare nel grembo dell'antichità, da cui pure è scaturito, insomma. Ad ogni modo, infatti, no, dice Dante: temo di perder viver fra coloro che questo tempo chiameranno antico. Una modernità che nello stesso tempo si percepisce come antica rispetto al futuro. Cioè, queste categorie di moderno e antico, no? Noi siamo abituati ad associare proprio all'età moderna, alla cosiddetta querelle des anciens et des modernes, fra i 600 e 700, no? Poi l'illuminismo, ovviamente, che esalterà proprio la modernità come valore assoluto, no? Pure il concetto di modernità, questo qui bisognerebbe aprire un lungo discorso. Io prima o poi scriverò anche qualcosa sull'argomento, non credo che lo leggeranno in molti, ma insomma. Comunque, queste categorie, in particolare il concetto, il termine di modernitas, come astrazione, proprio la modernità, paradossalmente nasce proprio nel Medioevo. quanto durerà l'uso moderno, cioè una modernità che è destinata a protrarsi anche nel futuro, no? Ad estendersi anche nei secoli che devono ancora venire. Quanto durerà l'uso moderno? Qui per uso moderno intende molto probabilmente l'uso della lingua italiana, l'uso moderno, l'uso del volgare, di cui proprio Dante aveva rivendicato la dignità suprema, indicando come modelli i poete regulares, le doctrinate poetrie, cioè paradossalmente un uso moderno che ha comunque modelli antichi, no? Cioè, il volgare doveva raggiungere la stessa dignità del latino, la stessa dignità letteraria del latino. No. Allora, dice, faranno cari ancora i loro incostri, cioè le vostre dolci parole saranno sempre apprezzate finché durerà l'uso moderno, cioè la poesia volgare. O frate, disse, questi che io ti cerno col dito e additò un spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Ecco, qui c'è l'indicazione del poeta Arnaut Daniel, si dice Arnaut, non Arnaut, il grande poeta provenzale, maestro di trobar clus, cioè di stile difficile, di stile criptico, arduo, grande modello delle rime petrose di Dante. E qui è davvero singolare che in questo strano canto, no? In cui si mescono il sacro e il profano, la Bibbia, il mito classico, omosessualità, eterosessualità, ambiguità sessuale, c'è un po' di tutto, insomma, e qui si fondono anche questi due stili diametralmente opposti, tra virgolette femminile, ma anche questi sono stereotipi, quello del dolce stil novo, decisamente maschio invece, aspro, vigoroso, il trobar clus di Arnaut Daniel. Dice, o frate, dici, questi che io ti cenno col dito e di tono spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlare materno. Qui c'è l'idea del fabbro, il poeta come artifex, no? Come fabbro, come un'immagine che si ritroverà in Carducci, per esempio. Il poeta è un grande artiere, artiere nel senso di artifex, cioè di fabbro proprio, no? Come cioè, il poeta non è così un sognatore, uno con la testa fra le nuvole, è anche un abilissimo artigiano della parola che riesce a forgiare con forza, con vigore, insomma, la materia costituita dalle parole. E ora versi d'amore, questa espressione, miglior fabbro del parlare materno, la userà T.S. Eliot riferendosi ad Ezra Pound, che non a caso tradusse Arnaut Daniel e tradusse anche i poeti stilnovisti, tradusse anche Cavalcanti. C'è questa continuità fra questo trobar clus, questa poesia così raffinata, culturalmente consapevole, della grande poesia, le massime esperienze della poesia novecentesca, no? T.S. Eliot, Ezra Pound. Ezra Pound scrisse, fra le tante cose, quel libretto, quel libro importante, Lo spirito romanzo, romanzo che non c'entra niente con il romanzo, come genere letterario, il romanzo d'avventura, romanzo rosa, romanzo. Spirito romanzo si intende, la tradizione delle lingue romanze, italiano, provenzale, delle lingue neolatine, insomma. Parla, libro in cui parla anche dei trovatori provenzali, di Dante, insomma, di Cavalcanti, per il quale aveva una vera e propria venerazione, Ezra Pound. Qui veramente si parla di Guinizelli, quindi non c'è. Vabbè, comunque, dice, fu meglio fare versi d'amore, prose di romanzi. Verso è rimasto proverbiale, no? Versi d'amore, riposo di romanzo. Soverchiò tutti, cioè superò tutti i versi d'amore, le prose di romanzi. Prose di romanzi, qui si intendono i romanzi del ciclo arturiano, un po' come quello che leggevano Paolo e Francesca, no? Quando leggono quella pagina del bacio di Lancillotto a Ginevra, lì, quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante. In realtà erano romanzi assolutamente mediocri, questi romanzi, dico in prosa, del ciclo arturiano, ma i romanzi poi lo sono quasi sempre, insomma, non è che sì, sono i romanzi provenzali da una parte, i poeti provenzali dall'altra, c'è cioè un abisso, insomma, i romanzi sono storielle insulse, insomma, e poi dall'altra parte ci sono questi straordinari poeti provenzali. Non so perché tutti leggono la prosa e nessuno legga la poesia, che è mille volte più interessante. Comunque, soverchio a tutti, e lascia dire gli stolti che quel di Lemosì credono che avanzi. Quindi lascia parlare gli stolti che gli preferiscono quello di Limoges, cioè Giraud, o meglio, Giraud de Bornei. Dante riteneva superiore Arnaut Daniel. A voce più calvea drizzan di volti e così ferma la sua opinione, prima carta o ragion per lor s'ascolti. Quindi coloro che ritengono superiore Giraud de Bornei sono così persone dal giudizio estetico un po' superficiale, non abbastanza raffinato, non abbastanza accorto. Si fermano, insomma, alla prima impressione, insomma. Così fermo molti antichi di Guittone, di grido in grido, pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Così allo stesso modo molti apprezzarono Guittone d'Arezzo, di cui forse avete letto quella canzone, Ahi lascio le stagioni di doler tanto, no? Il sirventese poi per la caduta di Montaperti. Io in genere salto Guittone a piè pari, anche perché è francamente illeggibile oggi, insomma. Ma ecco, quindi così, cioè, allo stesso modo molti apprezzarono Guittone d'Arezzo, nonostante il suo stile così rozzo, così municipale. Di grido in grido, pur lui dando pregio, cioè continuando sempre di grido in grido, cioè seguendo la diceria, la moda popolare, a riconoscergli un'importanza, una dignità, finché la verità ha prevalso ed è stata accolta dai più, cioè la verità della superiorità di Guinicelli rispetto a Guittone d'Arezzo. L'uno e l'altro Guido, ci sono quegli altri versi che dicono: credeteci ma bue nella pittura tenerlo campo e ora giotto al grido. Dice, così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Dall'uno all'altro Guido, i commenti per lo più dicono che il primo Guido è Guido Guinicelli, il secondo Guido Cavalcanti. Ma è più probabile, in effetti, proprio alla luce di questi versi, che il primo Guido sia Guittone, perché Guido Guidonis in latino si dice Guido Guidonis, ma si poteva traslitterare o Guido anche Guittone, Guidone. Insomma, il primo Guido molto probabilmente è appunto Guittone d'Arezzo, il secondo Guido Guinicelli, evidentemente. Vabbè, ma queste poi sono discussioni accademiche fine a se stesse. Comunque, se stesse, ora se tu hai sì ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale è Cristo abate del collegio, perifrasi per indicare il paradiso, cioè se tu hai un privilegio così ampio da poter, una sorta di lascia passare così, no? Completo che ti consenta di arrivare fino in paradiso, il chiostro in cui è Cristo abate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro. Quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccare non è più nostro. Cioè fai in modo che preghino per me, che si dica una preghiera per me, perché questo ci aiuta molto. Insomma, le anime del purgatorio, no? Possono migliorare la propria condizione grazie alle preghiere che vengono dette dai vivi e anche, e a maggior ragione, dai santi del paradiso. poi forse per dar luogo altrui secondo che presso avea disparve per lo fuoco, come per l'acqua il pesce andando al fondo. Bellissima immagine questa, anche qui una unione degli opposti, il fuoco e l'acqua, no? Il personaggio che l'anima che scompare nel fuoco come un pesce che va a fondo nell'acqua, no? Acqua e fuoco, queste antinomie primordiali, queste. No? Io mi feci al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco, perifrasi molto raffinata, molto cortese, molto retorica anche. Io semplicemente gli chiesi il suo nome, ma alla lettera dice, io gli feci capire che il mio desiderio preparava un luogo gradevole, gradito per il suo nome. E lui cominciò liberamente a dire, cioè, egli cominciò spontaneamente a dire, no? Qui Arnaut Daniel che parla in provenzale, qui Dante rende uno splendido omaggio alla lingua provenzale, alla quale tanto deve la poesia italiana delle origini. Oggi, fra l'altro, viene considerata per lo più autentica la canzone trilingue scritta da Dante. Non ricordo il primo verso, la canzone trilingue. Una canzone trilingue che sarebbe stata scritta alla corte dei Malaspina da Dante, idioma trifarium, no? Italiano, latino, provenzale, come lo chiama nel De Vulgari Eloquentia. Quindi qui Arnaut Daniel risponde proprio parlando in provenzale. Dante offre uno straordinario esempio di virtuosismo linguistico, scrivendo queste terzine in lingua provenzale, ma seguendo sempre la rima incatenata delle sue terzine e rispettando anche la metrica dell'endecasillabo italiano, che del resto, secondo alcuni, deriverebbe dal decasillabo francese. Tan m'abellisse vostre cortes demandes, che io non me puesc ni voil a vos cobrire. Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan, consiros vei la passada folor, e vei jausen lo gioi che sper denan. Ara vos prec, per aquella valor, che vos guida al somma delle scaline, sovegna vos a temps de ma dolor, poi s'ascose nel fuoco che li affina. Bellissimo questo ultimo verso, s'ascose nel fuoco che li affina. Quindi dice, tanto mi rallegra la vostra cortese domanda che io non posso né voglio nascondere a voi la mia identità. Io sono Arnaut che piango e vado cantando. Le lacrime che si mescolano al canto, un'immagine straordinaria, cioè un canto che esprime un dolore amoroso ma anche un dolore di pentimento. Dolore che però è sempre espresso in forma melodiosa, piange e canta contemporaneamente. Consiros vei la passada folor, non mi ricordo mai cosa voglia dire consiros. Ah, consiros, pensoso. Dice, consiros vei, pensoso contemplo la passada folor, cioè la passata follia, follia, il folle amore, no? Il folle amore, dice Dante. Cioè, questo il folle volo, no? La follia ecco quella che in greco si un'idea che corrisponde più o meno al greco ate, cioè una sorta di accecamento che porta l'uomo a perdere le giuste coordinate. Quindi vedo già fin d'ora la gioia che attendo domani, cioè le anime del purgatorio vedono già la gioia paradisiaca che potranno assaporare in futuro. Ara vos prec per quella valore, ara sarebbe ora, vi prego in nome di quel valore, cioè di quel potere divino che vi guida al sommo della scala, c'è questa metafora che si ritroverà anche, o meglio questa allegoria che si ritroverà anche in seguito, un po' l'allegoria della scala d'oro, la scala di Giacobbe, insomma, la scala che conduce fino al cielo. Sovegna vos a tempus de Madonna, quindi in quel momento ricordatevi del mio dolore. Ricordate le mie pene alle anime del paradiso per cercare di alleviarle. Poi si ascosa nel fuoco che li affina, splendido verso con queste F che danno un'idea di sofferenza, di affanno, ma anche di sottigliezza e di crepitio, no? Proprio quelli della fiamma. Ecco, nel fuoco che li affina, qui c'è molto probabilmente una simbologia alchemica. Cioè il fuoco che deve, no, purificare, no, purifica il metallo vile trasformandolo in oro, un fuoco alchemico, così come queste anime vengono purificate e si rendono degne di accedere al paradiso, questo amore così sensuale, carnale, in alcuni casi quasi quasi belluino, quasi felino, quasi quasi animalesco, che però si sublima, insomma, da Eros diviene agape e si avvicina ad un amore mistico, ad un amore divino. Ecco, speravo di riuscire a commentare più canti, ma almeno per ora vi ho già annoiato abbastanzamente, quindi a risentirci.